Effetto Mondo. Invite him to learn and then to apologize for what he's done to this country, but instead is willing to target my friends. I would invite him to learn and then to apologize for what he's done and then to walk back that very toxic rhetoric at a time like this. Eccoci qua, buongiorno Giulia, ben ritrovata. Buongiorno. Oggi siamo in collegamento telefonico, diciamolo, in attesa poi fra l'altro di averti in studio. In qualche modo, perché prima o poi torneremo anche un po' noi, no? alle vecchie modalità. Però per ora è tutto un'altra cosa guardarsi e mentre ci si parla si ha il microfono davanti. Comunque, insomma, cosa abbiamo sentito, succederà. Giulia? Era la voce di un attivista del movimento Black Lives Matter. Sì. E colgo l'occasione per ricordare a tutti che questo è un movimento, non è nato con i fatti legati all'assassinio di George Floyd, esiste da anni. E questa attivista reagisce all'ultima uscita di Trump sulla questione e ha definito Black Lives Matter un symbol of hate, un simbolo d'odio. E lei è molto arrabbiata, era ospite di una trasmissione della CNN e dice bisogna che Trump e i suoi collaboratori studino la storia, studino i linciaggi che ci sono stati subito dopo la fine della schiavitù, ma anche negli anni 50 e 60, che vadano a visitare i musei che raccontano la Black History. Tra l'altro negli Stati Uniti c'è persino un mese, febbraio, dedicato proprio alla storia dei neri in America. Quindi insomma è stata l'ennesima uscita non proprio felice di Donald Trump, primo perché comunque il movimento non, ripeto, preesisteva all'assassinio di George Floyd e continuerà a esistere, poi perché continuano gli episodi, le manifestazioni, i richiami all'unità. In tutto questo, con la pandemia che, come sappiamo, colpisce di più le minoranze, tra le quali anche gli afroamericani, quindi è sembrato proprio, e lo scrivono oggi i giornali americani, insomma, il modo sbagliato per cercare di rappacificare gli animi. Insomma, è la solita vecchia un po' questione, no, Giulia, perché Trump rappresenta tutte quelle persone che credono che, insomma, nemmeno di fronte a atti discriminatori o a vere e proprie forme di violenza la reazione debba essere, diciamo, no, altrettanto, anche solo verbalmente, forte, violenta. Invece questi attivisti pensano il contrario, che di fronte a discriminazioni nette o a casi come George Floyd bisogna reagire almeno in maniera forte dal punto di vista verbale. Un'incomprensione questa, diciamo, volendola leggere senza maliziosità, ecco, che esiste. Il Washington Post torna sul tema perché naturalmente, non dimentichiamocelo mai, siamo in campagna elettorale, quindi certo. Trump parla, quando fa queste dichiarazioni, a quello che pensa essere il suo elettorato. E il Washington Post sottolinea ancora una volta che forse Trump ha un po' non ha capito che tante cose sono cambiate nel paese, che sono le stesse giovani generazioni, non di afroamericani, non di messicani, ma diciamo di bianchi, che chiedono una società organizzata in un modo diverso, con una totale assenza di pregiudizi basati sul colore della pelle. Però insomma vedremo, perché anche Biden, insomma, non è riuscito finora, questo lo sottolinea il Washington Post ed è vero, ha avuto anche alcune uscite infelici, non è riuscito a convincere gli elettori afroamericani a votarlo o a fare degli endorsement. Adesso vedremo, perché c'è chi dice, circolava sui giornali nei giorni scorsi, che potrebbe esserci questa mossa a sorpresa di chiamare come vicepresidente Michelle Obama, che però ha sempre detto che in politica non sarebbe scesa, quindi insomma vedremo. Certo, sarebbe una mossa a sorpresa, probabilmente che avrebbe anche un effetto positivo sulla campagna elettorale di Biden. Allora Giulia, vogliamo parlare anche di Hong Kong? Sì, devo dirti, anche sui giornali italiani, naturalmente ho visto che probabilmente ne hanno parlato anche tanti, sì. GR, è una situazione esplosiva, tutti i giornali americani hanno in prima pagina queste foto, a volte sono addirittura le stesse, di questi ragazzi arrestati. È stata arrestata persino una ragazzina di 15 anni perché semplicemente aveva un cartello che mostrava una certa simpatia per le ragioni dei manifestanti. Il Financial Times ci apre, perché questo è naturalmente legato anche al fatto che Hong Kong, come dicevamo anche ieri, è la principale piazza borsistica dell'Asia e quindi ci saranno delle conseguenze. Molto interessante la reazione del Regno Unito, se vogliamo, sì. Perché come anche qui si diceva nei giorni scorsi, ma Boris Johnson ha preso la palla al balzo e anche il suo ministro degli esteri per ribadire che il Regno Unito, pandemia sì, pandemia no, è pronto ad aprire le sue frontiere a 3 milioni inizialmente di abitanti di Hong Kong e poi ad accelerare la concessione di permessi speciali, l'equivalente di un permesso di soggiorno che poi può essere trasformato in qualcosa di più definitivo, a tantissimi altri residenti a Hong Kong. E lo ricordiamo naturalmente, il 1 luglio del 1997 il Regno Unito disse addio a quel protettorato che passò definitivamente, tornò definitivamente alla Cina, quindi è il paese dove forse c'è maggior sensibilità per la questione, perché si sostiene che sono stati violati gli accordi che avevano permesso quel handover, che avrebbe dovuto continuare a mantenere i sistemi diversi, e invece Pechino ha perso la pazienza e non aspetterà i 50 anni previsti e sta cercando di farlo molto prima di uniformare le leggi e l'ordine, potremmo dire, di Hong Kong a quello della madre patria. Giulia, so che volevi parlarci ancora di Stati Uniti, perché laddove invece picchiano duro i numeri per quanto riguarda il coronavirus, ne abbiamo parlato nella prima parte, in California in particolare, ma sono numeri pesanti, e poi le dichiarazioni che ci hai dato ieri di Fauci erano l'apertura dei giornali in molti casi oggi. Adesso è appena arrivato un CNN alert che dice che in Texas e Arizona si può quasi parlare di una situazione pre-apocalittica. Il tema naturalmente è quello che non sono pronti i sistemi sanitari come non lo erano quelli europei. È vero che lo si ricorda ancora oggi che gli Stati Uniti hanno fatto incetta di questi 3 milioni di dosi di Remdesivir, che è un farmaco che può avere insomma, che è dimostrato abbia avuto degli effetti positivi. Il vaccino non c'è, lo sappiamo, le cure sono tutte tentative, e tra l'altro negli Stati Uniti si sperimentano anche tanti contagi di persone molto giovani, e quindi la preoccupazione è che lo trasmettano con conseguenze più gravi a persone di altri gruppi di età. Se vuoi sentiamo la voce di Trump, perché ieri, intervistato da un giornalista di Fox News nel cortile della Casa Bianca, è tornato sul tema mascherine. Sentiamo. I mean, I'd have no problem. Actually, I had a mask on. I sort of liked the way I looked. Okay, I thought it was okay. It was a dark black mask, and I thought it looked okay. It looked like the Lone Ranger. But no, I have no problem with it. I think, and if people feel good about it, they should. Un aiutino per la traduzione al solito, no, Giulia. Vabbè, ma ti giuro, io, vabbè, se non fosse che, che io tutto sommato, con buona pace degli ascoltatori che mi criticano quando parlo di Trump, trovo che comunque sia abbia un atteggiamento, se non altro, ambiguo. Ecco, sul tema delle mascherine, ricordiamo che non abbiamo mai avuto il piacere di vedere Trump con una mascherina, mentre la mette il suo vice Mike Pence. Dice: no, io non ho nessun problema con la mascherina, ne ho provata una, era nera e mi stava anche bene, I looked good, mi sembra, anzi sembravo quasi The Lone Ranger, che è un personaggio dei fumetti americano, però tipo Zorro, cioè ha solo una mascherina sugli occhi, quindi si sono scatenati i social media dicendo: ma di che mascherina parla il nostro presidente, non è quella che si deve mettere. Comunque, insomma, ieri sono stati oltre 50.000 i contagiati, e quindi anche oggi i quotidiani parlano di una, cominciano a credere che la stima che ricordavi tu, fatta da Fauci, di 100.000 contagi al giorno, forse purtroppo nei prossimi mesi davvero verrà raggiunta, anche perché questo è il weekend del 4 luglio, weekend tradizionalmente in cui le persone si incontrano, vanno in spiaggia, insomma gli assembramenti ci sono, e quindi bisognerà vedere se appunto avrà qualche conseguenza, così come è stato guardando quello che è successo nelle festività celebrate nei mesi passati. A distanza di 15 giorni si sono viste questo acuirsi dei contagi, quindi potrebbe, insomma, volendo essere non pessimisti ma realisti, potrebbe succedere la stessa cosa, perché lo ricordiamo ancora una volta, non ci sono obblighi proprio imposti a livello nazionale, assolutamente no, ma anche a livello di singoli stati i governatori non hanno preso misure draconiane come i lockdown da noi, niente di simile, quindi hanno chiuso i bar in California, in alcuni counties, però purtroppo le misure non sono adeguate all'emergenza, se lo paragoniamo con quello che abbiamo vissuto noi. Giulia, di Gerhard Schröder che si vuole ricandidare, me ne parleremo domani, perché sì, non abbiamo più è tempo. Tornato sulla scena. scena politica tedesca, ma secondo me è qui per restare, perché si vede che gli mancavano i riflettori della politica. Vuol sfruttare il vuoto creato da Angela Merkel, che insomma, che lascerà. Grazie, vediamo, dai, ne riparliamo. Giulia, bene. Ci sentiamo domani, grazie. Domani, è tutto per oggi, con Valeria Bernardi in regia, Luca Cremonesi in assistenza, in diretta Jacopo De Franchi in redazione. Ciao, buona giornata anche da me, Alessio Maurizio. Ciao.